sorriso guardando te, chissà che sognerai. Tante mattine ti ho vista accanto a me, con gli occhi tuoi nei miei. Conosco come sei, conosco cosa vuoi, sei come me. La vita ci ha insegnato a vivere con noi, e ci ha costretti a crescere, ma invecchia solo lei. Lei non ci frega più, lei non ci butta giù, noi siamo noi. Angeli, a volte diavoli, in questo mondo che non si fa scrupoli. Liberi, ma con dei limiti, sacrificando i sogni alle l'ultima, fammi volare via, brillami di allegria, ora svegliati, voglio dirtelo, anche se già lo sai, quello che ti dirò. I see my new blue, io gli tristi piani e ma blu, qui moi je t'aime. Sei, sei l'unica, lo sai. Ti amo e non riesco a smettere di ridere con te. Bellissima non sei, tranquilla quasi mai, ma come sei? Nessuno mai potrà manomettere l'idea che ho di te. Amarsi e non riflettere, il cuore va da sé. Seguirti nel metrò, sognarti nel palto dentro di me. Angeli, a volte diavoli, in questo mondo che non si fa scrupoli. Liberi, ma con dei limiti, sacrificando i sogni alle abitudini. Siamo complici dentro la mio, nasce pensando a te, ora ascoltami, voglio dirtelo, anche se già lo sai, quello che ti dirò, I see my new